9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon 2 maggio, buon post giorno del lavoro, il lavoro che non c'è, come molti hanno ieri dedicato i festeggiamenti e il concertone alla ricorrenza in quest'anno, visto che la crisi colpisce sempre più duramente l'Europa e l'Italia. Per questo ci sono i Doors, per questo continuiamo anche nel tema di oggi. Lo sapete, nel lancio della trasmissione oggi ci occupiamo di terzo settore, partendo dallo spunto di questo report annuale curato dalla Fondazione Unicredit. Ma come sempre, prima di entrare nel tema della giornata, nel presentarvi gli ospiti della giornata, due fari accesi sempre ai nostri temi costanti: quello della campagna per cui continuiamo a tenere aperto un centro di ascolto permanente per i piccoli imprenditori in difficoltà, partite IVA, artigiani, commercianti, e quindi l'indirizzo continua a essere disperatimai@radio24.it. trovate sul sito le disponibilità di molti di coloro che si sono appunto resi disponibili a una rete di ascolto, a centri di iniziativa sul territorio. Guarda caso, molti vengono proprio da quel terzo settore di cui parliamo oggi, e quindi un paio di lettere per cominciare di piccoli imprenditori. Ma siccome i Doors si riferiscono poi alla crisi europea, qualche flashback di che cosa è comparso sulla stampa internazionale in questi giorni, che non avete visto sulla stampa italiana, a proposito dell'avvitarsi della crisi europea. Innanzitutto un mio idolo, che è il nuovo governatore della Banca Centrale di Cipro, che ho conosciuto anni fa in vesti accademiche, che si chiama, pensate, Panikos Demetriades. Ecco, Panikos Demetriades è officiato a diventare presidente della Banca Centrale di Cipro, sostituendo Athanasios Orfanides, che non ce l'ha fatta a beccare la conferma al secondo giro. Ma qual è la particolarità di Panikos Demetriades? E mai come in questo caso nomen omen, perché Panikos, capite bene, che con i tempi che girano in Europa, perché il professor Panikos un anno fa su Financial Times lanciò la proposta che avvenisse un break up, cioè una rottura dell'euro, e però che fossero i tedeschi i più virtuosi a ritornare al marco, spiegando, devo dirvi con una certa maestria, perché Panikos ci sa fare, che in caso di break up, se proprio dovesse avvenire, sono i virtuosi che devono tornare alle proprie monete, non gli euro deboli che devono tornare alle proprie, alla lira o alla dracma in Grecia, perché in questo secondo caso gli euro deboli vanno incontro a svalutazioni e a impatti quindi di patrimonio e reddito disponibili di famiglie e imprese nell'ambito del 30-40-50%, cioè mega casi come l'Argentina dovunque. Questo lo dico per chi sogna di tornare alla lira in Italia. Diverso sarebbe se fossero i virtuosi a uscire. Naturalmente, all'atto della designazione di Panikos Demetriades a presidente di una banca centrale di un paese dell'eurosistema, ha dovuto ritrattare mettendosi in ginocchio con i ceci sotto le ginocchia, dicendo: ma no, lo scrivo come professore, eccetera eccetera. Questo per dirvi che nell'ambito degli euro responsabili poi le opinioni continuano a essere varie e diverse intorno alla sostenibilità di una moneta a mercati dei beni e dei servizi separati. Vi ricordo poi che in Irlanda è ufficialmente iniziata la campagna elettorale per il referendum che si tiene a maggio intorno al fiscal compact, e vedrete che la prossima settimana, con le elezioni che ci sono il 6 maggio in Francia, in Unland in Germania, in Grecia e con le amministrative italiane, l'aria diventerà sempre più pesante. Questo per quello che riguarda i Doors. Invece, qualche letterina di imprenditore, poi andiamo al tema di oggi. Ho scelto per voi di ringraziare, di dar voce oggi a Marco Longhi, innanzitutto, che ci scrive di essere un ex portare a manager di un'azienda di Bologna e che alcuni mesi fa, durante un suo viaggio di lavoro in Canada, il suo distributore locale è stato oggetto di una verifica fiscale da parte dell'Internal Revenue Service canadese, l'equivalente alla nostra agenzia delle entrate. Risultato: 2 ore e mezza di controlli intensi, ma in clima disteso e accertamento immediato, il distributore alla fine della verifica è stato rimborsato seduta stante di $5,000 canadesi per aver versato tributi non dovuti. Parificazione immediata, altro che, come avviene da noi, anni e anni di impugnative e creditiva che dopo 3 anni ancora non riusciamo a incassare. Poi una storia invece un po' diversa, che ci viene da Roberto Milanese da Alessandria, provincia di Alessandria, nord Italia, ci scrive, zona ormai ex industriali, 15 anni che ho aperto in franchising una struttura di servizi alle aziende in cui lavoriamo in 5 buste paga, ci dice Roberto. Alla fine del 2008 è cominciata la prima crisi con fallimenti che hanno fatto perdere un po' di liquidità, il 2009 ci ha visto a meno 20%, la sensazione era che chi arrivava al 2010 in piedi sarebbe stato salvo, così è stato, però siamo andati avanti fino a quasi termine 2011 con aumento del fatturato, però gennaio e febbraio 2012 abbiamo iniziato a vedere le premesse di una crisi profondissima, ora è il crollo. Siamo stretti tra mancati pagamenti lo scorso anno che non si riescono ad esigere, un calo di lavoro del 25%, costi fissi non comprimibili, sfiducia che serpeggia, dubbio che oramai hanno in tantissimi. Chiudere in fretta rimanendo drammaticamente senza lavoro ma limitando le perdite, o resistere, indebitarsi, ritrovarsi però tra pochi mesi senza lavoro con esposizioni patrimoniali pesantissime per noi, debiti familiari che non riusciremo a onorare. Questo spettro, insinuandosi così rapidamente, non mi fa più dormire la notte, ho i figli che studiano, devo pensare anche a loro, come farò a dover scegliere tra chiudere e licenziare oppure andare avanti e indebitarmi. Dopodiché Roberto continua con considerazioni su capisce chi vuole farla finita. Noi continuiamo a dire che non possiamo assolutamente capirlo, siamo qui per evitarlo, però anche la storia di Roberto e della sua impresa è una storia di quelle che fotografano la realtà. Non c'entra molto, ma a proposito di segnalazioni di difficoltà, naturalmente ci sono anche i dipendenti o i giovani che non riescono a trovare il lavoro, e qui poche righe da parte di Fabrizio Pennacchio. Fabrizio Pennacchio è un non vedente di Brescia di 20 anni, che ha finito la scuola da 3 anni, è diplomato in ragioneria, è perito aziendale, corrispondente in lingue estere con 72 centesimi come giudizio, è iscritto alle liste per categorie protette da ben 3 anni, non ha alcuna possibilità ancora di vedere soddisfatto una sola sua domanda, ognuno scarica l'aiuto sull'altro. Fabrizio Pennacchio, lo segnalo a chi ci ascoltasse nel bresciano, è un ventenne che vi posso garantire per la che ci scrive straordinario. Se qualcuno ci ascolta ed è in grado ovviamente di pensare secondo i posti in graduatoria disposti all'attuale legislazione di avere un'offerta per un corrispondente in lingue estere, perito aziendale non vedente, si faccia vivo con noi, perché poi ci pensiamo noi a girare l'eventuale proposta di una selezione, non di un'assunzione, di una qualunque cosa per Fabrizio. Grazie a chi è in ascolto, e ora andiamo al tema del giorno. Il tema del giorno, ve l'ho detto, nasce dalla suggestione di una ricerca sul valore economico del terzo settore in Italia che è stata presentata la settimana scorsa ed è stata elaborata dalla Fondazione Unicredit. Abbiamo qua in studio per parlarne il presidente di Unicredit Foundation, che è il dottor Maurizio Carrara. Buongiorno. Buongiorno a tutti. E il professor Giorgio Fiorentini, che insegna al Dipartimento di Analisi delle Politiche e Management Pubblico alla Bocconi, e è uno di coloro che da sempre professionalmente segue, inquadra e interpreta meglio i problemi del terzo settore in Italia. Grazie al professor Fiorentini. Grazie a voi, buongiorno. E abbiamo poi anche il curatore del materiale, per così dire, che ha messo in piedi e ha curato poi la ricerca, Giuseppe Ambrosini. Buongiorno. Allora, Presidente Carrara, è un settore che sempre più di fronte a un welfare pubblico che ha delle difficoltà di alimentazione delle proprie risorse, di efficienza dei propri modelli organizzativi, lo abbiamo visto, non riesce a venire a capo di come si può tagliare concentrando al meglio laddove lo Stato non riesce a esserci, elevando poi invece il grasso e la sclerosi che ha dove non dovrebbe essere. Detto questo, al terzo settore si chiede sempre di più, ma la fotografia che esce dal vostro report è la fotografia di come anche le difficoltà di alimentazione finanziaria dei donors, cioè delle dotazioni, delle erogazioni e così via, che è figlia della crisi, abbia da parte del settore una risposta che per il momento è abbastanza positiva, cioè la società riesce per il momento con l'autofinanziamento a controbilanciare le difficoltà. È un po' così secondo lei? Sì, io direi che la cosa importante, principale, che volevamo studiare e analizzare questo terzo settore, perché nessuno riesce ad ancora ad identificarlo come un comparto dell'economia del nostro paese, per cui volevamo, noi lavorando dentro Unicredit e quindi occupandoci della parte di solidarietà e filantropia non profit di Unicredit, ci siamo posti il problema di come far capire alla nostra, al nostro sistema di banca, quanto fosse importante seguire, alimentare ed aiutare lo sviluppo di questo terzo settore. Quindi abbiamo fatto questa ricerca che aveva proprio come obiettivo di fondo di dare il valore economico e quindi la potenzialità di sviluppo di un comparto come questo. Poi ovviamente quando siamo arrivati a vedere il primo risultato, quello che ci interessava di più, cioè capire quanto fosse, quale fosse il valore del non profit rispetto al prodotto interno lordo e quindi calcolare il volume di 67 miliardi di euro l'anno che corrispondono al 4.3% del prodotto interno lordo, siamo arrivati a dirci tra di noi cribbio, ma questo è un dato importantissimo che deve dare a questo settore grande dignità dentro l'economia del nostro paese, non solamente per gli avanzi dell'economia, ma per essere parte e ruolo integrante dell'economia anche del futuro, e questo lo vediamo oltretutto nei paesi più avanzati e più evoluti. Ora, detto questo, abbiamo dei dati che danno dei riscontri significativi, c'è qui Giuseppe Ambrosio apposta anche per seguire i dati, però una cosa che è vera è che questo comparto è un comparto che prevede crescita anche nei prossimi anni, e quindi è un comparto che io credo abbia necessità da parte degli istituti economici e finanziari di un po' di attenzione anche per aiutare il sostegno di queste cose, perché anche queste istituzioni soffrono dei ritardi di pagamento da parte della pubblica amministrazione laddove forniscono servizi. Allora Ambrosio, vogliamo dare alcuni dei dati di fotografia, che cosa significa in termini di occupati, in termini di volontari, questo settore come esce fuori dalla vostra ricerca? Sì, allora diciamo intanto che la ricerca è una ricerca campionaria molto diffusa, perché è basata su interviste di 2100 organizzazioni non profit, quindi sono rappresentative di un universo di circa 200.000 organizzazioni secondo le stime Istat del 2001, ma in realtà in grossissimo aumento, perché dalle stime diciamo più recenti pare che le organizzazioni in Italia siano superiori alle 400.000 unità. Quindi stiamo parlando di un universo del non profit che peraltro dal punto di vista proprio numerico, dimensionale, è molto rilevante. Dal lato degli occupati, la cosa che siamo riusciti a stimare, diciamo un'informazione che abbiamo stimato dall'incrocio delle domande del questionario, è che si arriva diciamo a circa un numero superiore alle 650.000 unità di occupati. E questo è un dato, anche questo, molto diciamo, in aumento rispetto alle stime che erano state fatte Istat, CNEL 2001-2003, che parlavano di circa 480.000 occupati. Quindi vuol dire che il settore in effetti in questi anni, stiamo parlando di circa un decennio, ha drenato molto, molto, molto occupazione. È uno di quei settori sicuramente dove l'occupazione è aumentata. È chiaro che la riflessione vera, che non è approfondita in questa ricerca ma che sicuramente andrà fatta in passaggi successivi, è capire qual è la qualità di questa occupazione. Però diciamo dal punto di vista numerico e quindi dei redditi che vengono corrisposti alle famiglie attraverso le persone occupate, possiamo dire che è un settore in netto aumento nell'ultimo decennio, peraltro con alcune dinamiche diciamo interessanti. Sono dinamiche, ad esempio l'occupazione femminile è un'occupazione che in questo settore è sempre stata rilevante e lo è anche in questa fase, quindi diciamo oltre il 60% degli occupati del settore è di sesso femminile, e questo è un altro dato importante. Diciamo, sicuramente anche questo è un dato che va preso, analizzato, però rispetto agli altri settori dove il 60% invece sono uomini, quindi questo è un settore diciamo decisamente in controtendenza anche da questo punto di vista. Per quanto riguarda, ecco, poi l'altra domanda, l'altra cosa importante che emerge, il valore del volontariato, che noi diciamo in questa ricerca non abbiamo stimato direttamente, lo hanno fatto altre organizzazioni, ad esempio il CNEL su questo, però la cosa che emerge è che il volontariato presente in Italia è un volontariato molto attivo. Molto attivo significa che noi abbiamo calcolato lo spiazzamento dei volontari rispetto ai dipendenti, cioè abbiamo chiesto alle organizzazioni: qualora tu dovessi rinunciare ai volontari, quanti dipendenti assumeresti? E il dato è questo qua, che ogni 5 volontari loro penserebbero di assumere una persona retribuita, quindi 1 a 5. Questo che cosa ci fa pensare? Ci fa pensare che questi 5 volontari sono 5 volontari che complessivamente fanno diciamo un full time equivalente, quindi diciamo stiamo parlando di 38-40 ore di lavoro. E questo è un dato importante, vuol dire che il volontariato italiano ha una rilevanza, un impatto che è sicuramente di tipo economico, si stimano oltre 4 milioni di volontari, le stime sui volontari sono sempre molto difficili perché in realtà non si dovrebbero contare le teste quanto, diciamo, le ore di volontariato per cercare di capire il valore, come dire, strettamente economico. Si parla però, diciamo, circa di teste tra i 4 e 6 milioni di volontari, sono cifre molto molto importanti. E la cosa interessante che emerge dalla ricerca è che questo volontariato è un volontariato molto presente, e devo dire che sicuramente il welfare italiano sta in piedi, tra le altre cose, perché c'è questo nucleo di persone molto presenti che svolge un'attività gratuitamente, senza alcun tipo di rimborso, compenso, e che supplisce talvolta, anche in maniera professionale, possiamo dirlo in alcuni casi, supplisce alle mancanze del welfare. Io ricordo tutti che poche settimane fa il governo ha proceduto alla stabilizzazione, non più quindi con quote di finanziamento annuale, della quota del meccanismo fiscale grazie a cui funziona la donazione per i cittadini contribuenti. Sapete che per anni le proposte del terzo settore, perché il meccanismo diventasse stabile, cioè non si dovesse dipendere anno per anno da quello che il ministro dell'economia sovranamente decideva di potersi consentire per salvaguardare i suoi flussi di cassa, i suoi saldi finanziari. Certo, siamo ancora abbastanza lontani da un quadro di incentivi fiscali privilegiati rispetto ad altri per il terzo settore. Ricordo a tutti, avete letto in questi giorni, che sono depositate proposte per esempio di finanziamento ai partiti politici in cui si arriva fino a quote di detrazione del 90% nel caso della proposta di Pellegrino Capaldo, rispetto quindi a multipli assai incomparabilmente più bassi, voglio dire, rispetto alla scelta libera del cittadino contribuente invece di donare fiscalmente al terzo settore. Professor Fiorentini, se dovessimo vedere a come in questi anni è evoluto dal suo osservatorio la cooperazione tra mondo invece del profitto, tra economia di mercato e i suoi attori, le imprese eccetera eccetera, e mondo del no profit, che impressione ha? Come sta evolvendo? Positivamente, o alla fine la caccia per risorse finanziarie che diminuiscono da tutte le parti accentua la competitività? No, io reputo che ci sia effettivamente una crescita, ed è una crescita che peraltro è determinata primo dal fatto che il welfare nella sua globalità, composto dal welfare, dal primo welfare e al secondo welfare. Primo welfare, ricordo, è previdenza, assistenza e sanità. Il secondo welfare invece è tutto quel welfare che fa riferimento per esempio al welfare delle aziende, in questi ultimi imprese, cioè di profitto. In questi ultimi anni si è sviluppato fortemente. Ricordo il concetto, non so, modello Luxottica, piuttosto che altri modelli, voglio dire, dove le imprese si avvalgono sostanzialmente del non profit. E questo diventa un fatto particolarmente importante. Parliamo del versante quindi rapporto profit e non profit, o imprese sociali non profit, come meglio forse dire, perché questo crea una filiera, ed è una filiera, voglio dire, di imprese sociali, che sono imprese sociali profit, imprese sociali non profit. Faccio un altro esempio, la Mellin per esempio si avvale di una cooperativa sociale, che è quindi un'impresa sociale non profit, per la supervisione nella grande distribuzione del merchandising dei propri prodotti. Tutto questo perché, voglio dire, è un fatto molto importante, e loro reputano che sostanzialmente tutto questo voglio dire sia un atu positivo. Dalla ricerca è molto interessante, perché alla domanda localizzazione delle aziende for profit con cui le imprese sociali hanno rapporto di collaborazione, cioè vuol dire dove maggiormente c'è collaborazione fra profit e non profit, la Lombardia vale il 50,7%. Poi ci sono poi c'è una distanza notevolissima con tutte le altre. La cosa altrettanto però interessante, e qui diventa un elemento critico, è alla domanda se esiste concorrenza fra le profit e le non profit. E le non profit in Lombardia sono percepite come concorrenti per il 44%. Quindi concorrenti temibili. Esatto. Allora, qui è inutile, adesso andiamo coi piedi nel piatto e senza stare a fare tanti giri. È chiaro che ormai si è strutturato un sistema tripolare, profit, non profit e pubblico. Quindi come tale è chiaro che il non profit, quindi le imprese sociali non profit, hanno anche questo tipo, voglio dire, di ruolo. E qui si apre tutto un ragionamento di qual è la formula imprenditoriale del non profit, che in molti casi, devo dire, è più efficiente ed efficace, ha maggiore economicità ed è maggiormente autonoma rispetto a quelle, voglio dire, di profitto. C'è un esempio banale, si chiama Cicilla, è una polpetteria in via Volta, voglio dire, a Milano, è una cooperativa sociale con tre persone che hanno, voglio dire, problemi psichici, eccetera. In un video che abbiamo fatto proprio su questa cooperativa sociale hanno detto coloro che gestiscono: ma la gente viene qui, deve mangiare le polpette, senza pensare che sostanzialmente dietro c'è, voglio dire, una persona psiche. Le polpette sono buone, le polpette, voglio dire, hanno un prezzo giusto, voglio dire. Ecco, tutto questo, voglio dire, è un elemento importante, e noi vendiamo, voglio dire, le polpette. Stiamo, voglio dire, sul mercato, e quest'anno, diceva, noi abbiamo fatto un utile, voglio dire, che poi viene reinvestito. Dico questo perché è molto importante, la formula imprenditoriale dice che tutto questo vuol dire reinvestire sostanzialmente gli utili. Quindi attenzione, ecco, riassumendo, il ragionamento è profit, non profit, esiste continuità di filiera in logica collaborativa, esiste, voglio dire, però concorrenzialità, con quindi un ragionamento di formula imprenditoriale con dei costi inferiori. Chiudo con invece il ragionamento nel rapporto con la pubblica amministrazione, perché è indubbio, tutti sanno che, voglio dire, una percentuale elevatissima per le cooperative sociali vale il 75-80% del loro business, io lo chiamo business, voglio dire, di queste imprese sociali non profit, deriva dallo Stato, cioè vuol dire dai comuni, eccetera. Voi pensate che le non profit a Milano, parliamo del volontariato, sì, della popolazione matura ed anziana, vuol dire sopra i 54 anni, quelli che assistono in termini socioassistenziali e sanitari altre persone anziane di Milano valgono, in una valorizzazione che si diceva prima, 20 milioni di euro. Cioè vuol dire che il sistema, i volontari, fanno risparmiare 20 milioni di euro. Pensate, non so, per esempio al centro trasfusionale del Policlinico di Milano. Quella stessa attività che loro fanno vale circa 105.000 euro all'anno di risparmio per il Policlinico di Milano. Cioè, quello che è importante, chiudo, è che però la cosa più importante oggi è avere una metrica, o come dice lei, direttore, una monetica sostanzialmente, esatto, di quello che è il valore. Su questa base chiudiamo le asimmetrie informative, che sono tutte inficiate un po' dalla solo valorialità, che è importantissima, e andiamo su degli elementi di sistema che fanno in modo che queste imprese sociali siano imprese sociali del sistema, e sono strutture e infrastrutture del sistema. Ora è importante, vedo da alcune delle mail che arrivano, è importante spiegare a chi ha un'idea del terzo settore come semplicemente di coloro che mettono i banchetti, raccolgono le firme. Guardate, ci sono tre diverse tipologie del mondo del terzo settore. Una è fatta dalle tantissime migliaia e migliaia di associazioni che si battono per questo, per quel tema, per questa, quella sensibilità, e che quindi sostengono, innervano con i loro corpi intermedi la necessità di riorientare le politiche, il sostegno su questo o quel argomento. Diciamo che queste le caratterizziamo, chiamiamole quelle che si occupano, l'advocacy, cioè loro sostengono delle cause. Poi c'è un secondo filone, che è quello che poi è più direttamente protagonista del fenomeno di cui stava adesso parlando il professor Fiorentini, che sono invece tutti gli attori del terzo settore che offrono, si organizzano per dare servizi in tutto l'ampio spettro, ovviamente, che può riguardare questo termine. E in questo settore troviamo la necessità di forme giuridiche, di forme forme di imprenditorialità vere e proprie, di organizzazione dei tessuti di questi attori che le fanno vere e proprie imprese. Poi che siano imprese che non perseguono il profitto, lo reinvestono, organizzate in forma di cooperativa sociale, le forme giuridiche possono essere diverse, ma dovete capire che in questo ambito la forma dell'imprenditorialità e le tecniche di organizzative e di gestione sono a tutti gli effetti quelle di un'impresa. Non dovete pensare che sia, anzi, il problema è che la mancanza del lucro consente spesso, privando di alcuni freni tipici della piccola impresa italiana, schemi organizzativi ed efficienze maggiori di quelle che ci sono sia nel rivale privato che offre servizi magari nello stesso ambito e incomparabilmente più elevate del settore pubblico. Poi c'è una terza, sia pur composta da un numero di attori molto più ridotti, diciamo sotto categoria del mondo del terzo settore, che è quello delle imprese, degli attori del terzo settore che si occupano delle erogazioni, diciamo soprattutto sono le fondazioni del credito. Tante volte abbiamo parlato dei compiti delle fondazioni del credito, della particolarità della storia dell'evoluzione delle fondazioni del credito nel nostro paese, dalla privatizzazione di Amato in avanti. Diciamo che loro hanno questa caratteristica, sono quelli che purtroppo in questi anni, per via di come sta messo poi il sistema bancario, hanno molti meno dividendi di quanto avessero fino a 3-4 anni fa, e c'è una difficoltà notevole quindi nel tenere i livelli delle erogazioni, che sono anche lì a fini sociali, culturali, eccetera eccetera. Questa è la bipartizione, anzi la tripartizione del mondo, e quello che si vede in questa da questo report, quello che mi riguarda, è che l'accentuazione dei livelli di efficienza, degli ambiti dimensionali eccetera eccetera, è una delle caratteristiche che viene proprio fuori da questa. La cosa incredibile è che è chiaro che per la parte che offre servizi, visto che qui le pubbliche amministrazioni sono in difficoltà in torsione di pagamento per tutti, per le imprese private che si lamentano qua, ma figuratevi per loro, ecco, il fatto di essere riusciti ad andare avanti e anzi con un tasso di sostituzione, di maggior capacità di autofinanziamento in questi 3 anni, perché questo è uno degli elementi, vero, che viene fuori a Bosini da questa ricerca, è una cosa che testimonia che non è un polmone, capito? Qui non è San Martino che dice spacchiamo il mantello perché così andiamo più facilmente in paradiso. Qua è una modalità sempre più essenziale per far fronte alle inefficienze di pubblico e privato, e anche a una capacità autosostentativa che certo ha bisogno poi anche di managerialità nel trovare forme di autofinanziamento che sono quelle del mercato. Concorrenziale, sì, concorrenziale, ma per una sana concorrenza, e soprattutto perché così dal basso e conoscendo meglio il territorio si identificano meglio i bisogni a cui bisogna dare una risposta, perché il centralizzato dirigista o la grande impresa privata ha su questo degli ambiti di difficoltà molto maggiori. Eccoci qui, tornati in studio, stiamo parlando del terzo settore approfittando di questa ricerca sul valore economico del terzo settore in Italia che è stata appena presentata da Unicredit Foundation. Abbiamo qui il suo presidente, che è Maurizio Carrara, il professor Giorgio Fiorentini e Giuseppe Ambrosini, che ne è stato curatore. Nel frattempo, mentre andavamo in onda prima dell'introduzione pubblicitaria, le agenzie hanno battuto la notizia di uno sviluppo sulla vicenda indiana che ha i nostri due Marò del San Marco detenuti, per gli incidenti che sono avvenuti fuori dalle acque territoriali indiane, e la Corte Suprema indiana ha dato l'ok intanto alla partenza, quindi al ritorno verso l'Italia, della petroliera Enrica Lexi. Sapete invece che c'è stato un supplemento di rinvio, per così dire, per quello che riguarda i due Marò, che rimangono quindi lì. Allora, si è collegato con noi intanto anche il direttore generale di Unicredit, della banca Unicredit, Roberto Nicastro, che saluto, buongiorno. Buongiorno a tutti. Che può stare con noi solo pochi minuti, quindi lo faccio una domanda secca, per così dire. In un momento, in una fase nella quale il sistema bancario ha i suoi bei problemi, cioè abbiamo le raccolte negative, abbiamo la necessità di ripatrimonializzarsi, abbiamo una redditività, un ROE che continua a scendere, insomma è uno dei tratti dominanti dell'eurocrisi, in ogni paese nazionale è diverso, per ogni banca è diverso, ma la curva temporale che vivono il sistema bancario è questo. Dall'altra parte l'impresa, le famiglie che lamentano, perché ovviamente a fronte dei problemi del sistema bancario tutti lamentano la restrizione del credito, è uno dei tre tratti dominanti di tutti tutte le lettere che stiamo ricevendo nella nostra iniziativa Disperati Mai, @radio24.it, le altre due sono lo Stato e le tasse, lo Stato che non paga, e poi il terzo sono che tutti sono diventati cattivi pagatori. Ma in questa curva temporale, per una banca come quella di cui lei è direttore, Nicastro, una ricerca come questa e soprattutto le necessità a propria volta di avere servizi ad hoc offerti dal sistema bancario da parte del terzo settore e la necessità di dover anche elaborare anche qui una monetica, dei criteri attraverso i quali selezionare chi sostenere in questo mondo che è sempre più necessario viste le difficoltà dello Stato nell'assicurare welfare e le restrizioni di reddito disponibile di patrimonio a cui vanno incontro i soggetti privati. Ecco, tutto questo che sfida è per una banca come Unicredit? Si può davvero pensare che il sistema bancario, che è costretto a stringere la cinghia e a stringerla agli altri, al terzo settore possa per così dire dedicare invece un'attenzione e risorse che ad altri è costretto invece a negare? Ma mi sembra che quello che lei molto correttamente ha descritto configuri una nuova sfida per la banca. La banca in passato si è avvicinata al terzo settore soprattutto con le forme più o meno tradizionali di donazioni, diciamo di sensibilità proprio legata anche a derogazioni, e in realtà con il nuovo scenario in cui ci troviamo tutti ad operare le risorse sono molto più scarse e quindi un certo tipo di, chiamiamolo quasi mecenatismo, no? Come poteva essere vissuto in passato, visto in passato, oggi non è più possibile. Ciò nonostante e in parallelo in realtà, come è stato evidenziato, il ruolo del terzo settore nella società in una crisi come questa diventa ancora più importante e quindi deve cambiare anche il modo con cui la banca si avvicina e cerca di, come dire, esprimere un valore nei confronti del terzo settore. Quello che noi per esempio stiamo cercando di fare è, oltre a cercare di capire meglio il terzo settore, quindi la logica anche della ricerca che ha realizzato Unicredit Foundation, anche la messa a disposizione di nuovi servizi proprio per il mondo del non profit. Per esempio in Unicredit abbiamo creato Universo Non Profit, che di fatto è una banca nella banca, e sostanzialmente aver formato e raccolto circa un migliaio di volontari interni che sono disponibili in ciascuna delle nostre agenzie a mettere a disposizione prodotti e servizi dedicati alle imprese sociali. O in parallelo abbiamo lanciato un portale che si chiama ilmiodono.it, che aiuta a fare fundraising per le imprese sociali con un click, nel senso che è molto molto semplice riuscire a fare il fundraising in questo modo. Vuol dire anche cercare di avere prodotti dedicati, faccio ad esempio riferimento ai prodotti che consentono di anticipare erogazioni da parte dell'operatore pubblico verso le imprese sociali. Direttore, naturalmente i miei ascoltatori che sono un po' accesi come il conduttore abitualmente, vedo che arrivano gli sms dicendo, anzi al nostro numero 349-238-6666, lo ricordo a chi non se lo ricordasse, arrivano dei messaggi che dicono: ma insomma, è possibile mai credere al fatto che le banche si occupano del terzo settore con una logica diversa, come per molte grandi imprese italiane che per rifarsi la faccia, dice un paio me ne sono arrivate. Se permette, do io una mia prima risposta. Ragazzi, io che opero in alcune grandi aziende facendo consulente proprio per questo, perché sapete che faccio il volontario per assistere i giovani terminali, quindi sono convinto da anni per come è cambiata la mia vita dell'importanza del terzo settore, per quello che ho visto fare alla gente per assistere dei giovani che morivano di cancro, ai quali l'organizzazione ospedaliera non era in condizione di dare nessun tipo di assistenza, quindi siccome ne parlo sulla mia pelle, io a quel punto ho iniziato a darmi da fare per questo. Francamente devo dire che io non ignoro la componente che in molta social responsibility, corporate social responsibility, c'è anche, che è quella che preoccupa i miei ascoltatori, però vi devo dire che o ci diamo tutti da fare perché il mondo profit, anche le banche per prime capiscano meglio come si può andare, si deve andare sempre più in quella direzione, o altrimenti è inutile, perché se ci fermiamo solo alle polemiche pensiamo che Unicredit se li fa la faccia, che il professor Fiorentini lo faccia, non si capisce bene perché, che io ve ne parli per tenermi buona la coscienza. Non funziona così, non è così. Pensate a, lo dico a un paio d'altri che mi dicono: ah, questo è il mondo anglosassone, lo Stato si deve ritirare e il terzo settore fatto dai ricchi deve dare la risposta. Non è così neanche lì, a parte che lo Stato negli Stati Uniti più che ritirarsi si sta espandendo, tanto per dirne una, da un paio d'anni a questa parte, e vi devo ricordare che sono attualmente 37 milioni i cittadini americani che vanno avanti coi buoni pubblici per mangiare, che è il massimo storico mai raggiunto in quel paese. Quindi se avete l'idea di Stati Uniti con lo Stato che diminuisce, avete un'idea un po' approssimativa. Ma secondo, lì lo Stato ha fatto da sempre la scelta di consentire a banche e privati un rapporto in cui nel sostegno al terzo settore è molto più utile, cioè si incoraggiano i donatori. Da noi lo Stato ha paura di farlo, questo è il problema, perché ha paura che se davvero facesse una cosa simile le banche e i privati se ne occupano ancora di meno. Nicastro, so che se ne deve andare, ma la priorità per voi da questo studio per andare più avanti qual è stata? Per lei soprattutto, leggendolo, qual è stato il punto che l'ha colpita di più e in cui ha detto: come direttore generale provo a cambiare questo e questo per andare incontro a questo bisogno? Ma guardi, direi due cose. Da una parte il fatto che in un momento in cui in questo momento c'è una tal assenza, scarsità di pensiero positivo nel nostro paese. Il mondo del terzo settore in realtà è un gran portatore proprio di se non di ottimismo, di grandissima voglia di fare, no? Quando leggiamo che questo settore è l'unico in Italia tra quelli che si occupano di domanda interna in cui il numero degli occupati rimane stabile, no? Invece di scendere, beh, insomma, è un elemento che fa veramente molto molto riflettere, come pure fa riflettere il collegamento col territorio che questo, che il terzo settore ha, e anche il fatto che il 62% degli addetti al terzo settore provengono dalla componente femminile, quindi in qualche modo anche una gran diciamo contributo di modernità nel complesso che il terzo settore dà alla società italiana. Sono entrambi argomentazioni forti, per cui, tornando a quello che lei diceva qualche secondo fa e la sua domanda di prima, in realtà il terzo settore occupa così tante persone, ha un ruolo così crescente nella società che, come dire, la banca non può non occuparsene. Non è tanto un tema di buonismo, è semplicemente una questione di fare il proprio mestiere in modo come dire, del tutto normale e naturale, per cui in effetti anche per noi il riuscire ad avere prodotti, servizi, un'offerta dedicata, ripeto, non è niente di eccezionale, è la cosa che dobbiamo fare, punto e basta. Va bene, io ringrazio intanto Nicastro, ora abbiamo il minuto sulla informazione stradale, arrivederci Nicastro. Allora, tornano i DORS, ma i lanci successivi di agenzia dicono che la decisione della Corte Suprema indiana riguarda il rilascio in realtà non solo della nave e dell'equipaggio di 24 persone, ma anche dei 4 Marò dell'unità di antipirateria e delle loro armi a bordo, a condizione, dice la Corte Suprema, che capitano responsabili della compagnia in navigazione assicurino, e anche con una dichiarazione scritta e una garanzia bancaria, la disponibilità della nave e dell'equipaggio in cui sia richiesto alle indagini ulteriori o dall'inchiesta giudiziaria a che è a carico di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. E la Corte ha anche richiesto una simile assicurazione al governo italiano per quanto riguarda i 4 manò dell'unità di pirateria che sono rimasti a bordo. Ecco, questa è stata fornita stamattina dal governo italiano. Una telefonata al volo da Luca, da Torino. Prego Luca. Grazie dottor Giannino per lo spazio che mi concede. Volevo porre l'accento velocissimo su due temi. Io sono un volontario dei Vigili del Fuoco che innanzitutto bisogna riconoscere che se possono oggi come oggi operare i Vigili del Fuoco volontari, parlo soprattutto della provincia di Torino, lo possono fare grazie al contributo degli enti locali e delle fondazioni bancarie con i quali abbiamo potuto acquistare mezzi e attrezzature che diversamente non ci sarebbero mai stati dati. Il secondo punto riguarda proprio il tema scottante della spending review. Noi siamo incardinati nel Ministero dell'Interno, facciamo parte del Corpo Nazionale, e in completa controtendenza rispetto a quello che invece si dovrebbe fare, si sta facendo di tutto per far morire il volontariato nei Vigili del Fuoco, tant'è che le recenti disposizioni prevedono che per fare il volontario bisogna spendere quasi 400 euro per fare la visita medica, quella di primo ingresso, e addirittura hanno posto dei limiti ai regolamenti, in modo tale che per prendere una patente per condurre i mezzi di soccorso, oggi come oggi, bisogna abbandonare il proprio posto di lavoro per un mese. Esatto. Per poter conseguire. Luca, conosco e ti ringrazio personalmente perché conosco il problema, perché un mio amico personale me l'ha spiegata, che fa anche lui il volontario da molti anni, anche con un grado elevato. È incredibile perché, mi dispiace dirlo, in una specie di difesa per evitare la sottrazione del piatto, i sindacati dei dipendenti pensano che la cosa migliore sia ostacolare gli esterni, e in questa maniera perderanno loro e faranno perdere alla società. Questa è la mia, purtroppo, opinione netta. Una domanda finale al presidente di Unicredit Foundation. Per voi, invece, da questa ricerca, l'impegno a fare concretamente quale diventa? Il primo, il prioritario? Dunque, l'impegno prioritario che abbiamo è questo. È far rendere... dare coscienza al mondo del non profit, dal quale io provengo e proviene anche Giuseppe Ambrosio, e ci abbiamo lavorato una trentina d'anni e Giuseppe un po' meno, dare coscienza a questo mondo di essere un soggetto economico importante, e pur in assenza di rappresentanze sindacali strutturate, dare senso al fatto che esiste un mondo che deve crescere e che deve farsi riconoscere dal pubblico e dal privato come soggetto di alta rilevanza sociale. La seconda cosa però mi interessa è questa, rapidamente, è che qui noi lavoriamo in una banca e vogliamo che quella banca ci segua sui temi importanti. E io qui speravo che arrivasse, quindi ringrazio lei, Fiorentina Nicastro. Radio domani 24, di nuovo l'assalto. La passione si sente.